Crucify! Sentire quanti siete. Chi volete libero? Gesù o Barabba? Chi volete libero? Gesù o Barabba? Siete abbastanza. Chi volete libero? Gesù o Barabba? Grazie Rock Indipendente! Grazie.